Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dalla parte opposta prova a farsi vedere Iago Falche, il traversone per Dzeko che prende posizione di Dzeko, 2-0. Can't think, can't sleep, can't breathe. Va a cercare spazio Freddy Guarin, il suo cross col destro accenna l'uscita per Kic che salva in un primo momento ma poi non fa nulla. Jovetic, ancora Jovetic, 1-0 per l'Inter, due partite, due gol per Jovetic. Corsa di Jovetic, ma Jovetic spiazza Berkic, sempre Jovetic per l'Inter, 3 gol su 3 portano la sua firma. Birsa, si accentra Birsa, l'assist per Paloschi. Alberto Paloschi e la serata magica del Chievo, 4-0. Gran pallone di Perez, Quagliarella, il tocco di Quagliarella, 300 in Serie A, festeggiate con il gol del sorpasso, 2-1 Toro. Che meraviglia ritrovarci dopo un'estate lunghissima e torrida. 800 24 00 24, numero verde, formazione al completo, orario finalmente definitivo, fino alle 3:30. Giorgio De Luca, nostro autore, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao, Pierluigi Pardo. Sei incupito improvvisamente, tutto bene, no? Beh, perfetto, tu cosa dici? Oggi finisce il carnevale del mercato, poi c'è la quaresima della nazionale contro Malta e Bulgaria. Poi fino a vedere il campionato. La quaresima della nazionale potrebbe coincidere con l'ultimo weekend di mare, per cui diciamo che cerchiamo di trovare un aspetto positivo. No, a parte le battute, grande rispetto per la nazionale, ma è chiaro che il mercato in questo momento muove adrenalina e, sì, e devo dire che quest'anno è forse il mercato più appassionante degli ultimi anni, un po' perché sono tornati i soldi, non si sa bene da dove, sì, e lo scopriremo perché, vivendo, Pierluigi. Ecco, perché questo inizio di stagione con queste prime due partite insomma mette sul tappeto una serie di problemi e di situazioni impreviste, per cui per esempio la Juve deve fare delle cose assolutamente, le sta anche facendo, il Milan deve ancora migliorarsi, la Lazio sta facendo delle cose, il Napoli, insomma quest'anno è particolarmente delicato secondo me l'ultimo giorno di mercato. Sì, è particolarmente delicato, finisce alle 23, c'è qualche movimento, stavo leggendo che Livaia torna in Italia con l'Empoli, chiaramente non un movimento maggiore, però voglio vederlo a Bergamo contro l'Atalanta. Così, tanto per dire, Chievo, Torino, Inter, Sassuolo e Palermo sono a punteggio pieno. La Juventus ultima in classifica, da 103 anni non succedeva questo, 0 punti dopo 2 partite. Poi prenderemo per i fondelli ovviamente Claudio Zuliani, lo sai benissimo, l'abbiamo convocato giusto per sbeffeggiarlo e per parlare con gli juventini, no, naturalmente anche in modo serio. 800 24 00 24, numero verde. Se ti resta quel senso adesso con la quaresima della nazionale di coito interrotto, che non è bello, però che vuoi fare adesso? Io sinceramente non vedo l'ora che arrivi la terza giornata di campionato, anche perché i confronti saranno interessanti. Cos'ha la Juventus, Pier? La Juventus ha un po' di problemi di congiuntura, perché comunque l'infortunio di Marchisio non è un dettaglio, perché Khedira si è rifatto male e questo potrebbe non essere un elemento, diciamo così, congiunturale, ma un po' più strutturale, nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore che aveva delle incognite fisiche quando è stato preso e quindi si poteva anche temere qualcosa del genere. E invece di più strutturale, secondo me, ha il fatto che, come dicevamo già quest'estate, ha perso dei grandi giocatori pieni di personalità che stanno in campo in un certo modo e ne ha comprati altri ne ha comprati altri che sono certamente di grande prospettiva e sono anche molto buoni secondo me, ma non hanno la stessa, non sono pronti così come erano pronti quelli di prima. Insomma, la Juve di ieri e la Juve del 6 giugno contro il Barcellona, visti metti gli 11 e gli 11, sono proprio due sport diversi. Sì, chiaro. Quindi c'è questo, insomma, c'è questo. Devo dire che sono molto onesto De Rossi a fine partita nel sottolineare. Mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto perché ha sottolineato due cose che raramente i giocatori sottolineano, soprattutto nella adrenalina del match appena finito. Uno, il fatto che il gol subito può diventare addirittura utile per lo scontro diretto, che vuol dire avere una testa insomma abbastanza proiettata sul futuro. E l'altra, che la reazione della Juve, perché è chiaro che ieri al fischio finale insomma il giocatore da Roma poteva lasciarsi andare un entusiasmo smodato, invece poi alla fine quello che si dice De Rossi è: se abbiamo sofferto così tanto nei minuti finali, vuol dire che la Juve c'è ancora, e questo secondo me è vero. Sì, anche però perché se Skorupski non si inventa quella parata sul colpo di testa di Bonucci, siamo qui a raccontare un'altra storia. Però insomma, detto fra noi, ieri poi per detto al campo è stato evidente. È evidentissimo. Ecco, cui se la Juve non riesce una magia nelle ultime ore, rischia di arrivare col fiato corto quantomeno a gennaio. La Roma ieri sembrava bellissima, però le notizie sono ovviamente la Juventus, la Roma che ieri sembrava bellissima dopo quella opaca di Verona, la Lazio disastrosa e il Napoli che sembra il cuginetto di quello di Benitez, perché il Napoli sembra la Roma di Zeman. Sì. Cioè, ieri ha fatto una partita veramente da Roma di Zeman di tre anni fa, cioè 50-60 minuti bellissimi, proprio strepitosi, e poi però un blackout, un calcio a secchio. Cioè, sì, secondo me le manca in questo momento la capacità di gestire le partite, che è fondamentale, perché devi sapere qual è il momento in cui puoi aumentare il ritmo, il momento in cui lo puoi abbassare, il momento in cui devi difenderti. E insomma, il Napoli ieri non l'ha fatto, ha rischiato addirittura di perdere una partita che avrebbe strameritato di vincere per come ha giocato nei primi 60 minuti. E siamo all'inizio, l'unica buona notizia per il Napoli è che questa partenza lenta non è soltanto della squadra di Sarri. Sì, questo è vero. Adesso ci fermiamo per il traffico. Ovviamente non è Skorupski il portiere della Roma, è un altro con un cognome difficilissimo che è Szczęsny. Resta il fatto della cronaca di una parata pazzesca ieri su quel colpo di testa di Bonucci, che se non fosse andata così oggi saremmo qui a parlare di un altro film. Poi parleremo anche dell'Inter, poi parleremo anche del Milan, poi parleremo delle vedove di Pirlo e Tevez che sono sempre più numerose. E poi soprattutto parleremo con voi. 800 24 00 24, il numero verde, fino alle 3:30, Grazie. Tutte puttanate. Tutti convocati. Tutti convocati. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Capisco che perdere due partite di seguito è brutto, soprattutto alla Juventus, però il calcio capita anche questo, bisogna essere lucidi, analizzare le cose che non vanno e prepararsi al meglio, perché la stagione è ancora lunga. Abbiamo preparato la Supercoppa in un certo modo, abbiamo perso purtroppo alcuni giocatori e numericamente ho dovuto fare anche delle scelte durante queste due partite. Abbiamo avuto una bella reazione e da quella dobbiamo ripartire. Ora abbiamo la sosta e tutti i giocatori partiranno. Quando rientreranno tutti ci prepareremo per questo mese importante che abbiamo tra campionato, dove dobbiamo ancora centrare la prima vittoria e la Champions. Oggi siamo ai Beatles, un grande classico. Claudio Zuliani, buongiorno. Ovviamente Pierluigi Pardo è con noi. Ciao, siamo in formazione completo, è evidente, l'ho dichiarato prima, poi avremo anche un allenatore capolista più tardi. È evidente che abbiamo convocato Zuliani perché, Pierluigi, per capire adesso, tu per puoi dire per prenderlo in giro, ma per prenderlo non ci mancherebbe in giro, altro, no? Penso che la Juve in questi anni abbia accumulato una tale quantità di successi che può tranquillamente gestire questa emergenza, doppia sconfitta, questa emergenza, soprattutto perché insomma, c'è tutto il tempo. Però secondo me qualcosa qualcosa non quadra, qualcosa non torna, e bisogna aspettare le 23, ma c'è il rischio che questo mercato, che pure secondo me alcune soluzioni non logiche, però insomma non sia stato l'ideale. Questa è un po' la mia sensazione. Ma sai, a me che non torna, mentre Simone da Verona scrive: quest'anno abbiamo deciso, per arrivare al campionato, di partire a meno 6, tanto poi stai sereno che lo scudo lo prendiamo ugualmente. Questo era lo zuccherino, così dopo la supposta sarà meno amara, scrive Simone da Verona. A me non torna il fatto che Allegri è un anno che chiede un trequartista e la Juventus non lo prende. Ma comunque, Claudio, come stai? Molto bene, grazie. Sono appena tornato dalla capitale, dove ci sono dei disservizi notevoli. L'ho trovata molto peggiorata, devo dire. Sì, so, parlane con Pardo. Io, sai. Tipo, io non vado a Roma da 20 giorni. No, tipo i bagni della stazione Termini piuttosto che altre cose. Ci sono dei problemi seri. Stiamo divagando. No, vogliamo parlare dell'inchiesta Mafia Capitale? Non so, Mafia Capitale. Sì, no, il prefetto per il giubileo contro la corruzione, delle cose che non mi aspettavo. La vaccina, insomma, la rigore a Pogba, non lo dice nessuno. Rigore a Pogba, sì. Senti, facciamo così: mi metto alla finestra e mi diverto. Marco, provincia di Imperia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo fare una domanda. Come avete detto voi, secondo me anche la Juve ha sbagliato proprio la campagna acquisti. Perché la squadra si costruisce in primavera e non agli ultimi giorni di mercato. E poi vorrei avere il vostro parere se Mandzukic è meglio di Loriente, e in prospettiva futura, appunto, anche se oggi comprano un giocatore, secondo me la Juve quest'anno non combina niente, perché non è stata la società a non pianificare. Si sapeva che i giocatori andavano via, doveva almeno costruire la squadra. Poi un anno si può anche non vincere, perché non può sempre vincere la Juve. A me sembra che l'abbia fatto, perché Dybala l'ha preso istantaneamente, perché Mandzukic si l'ha preso per tempo, perché Kedira l'ha preso infortunato per tempo. Sì, infortunato per tempo. Insomma, non mi sembra che la Juventus non ci abbia pensato in primavera. Claudio? No, ma devo dirti che secondo me ruota tutto intorno a Vidal, nel senso che la Juventus, che infatti dai media era stata esaltata perché si era mossa prima di tutti, Mandzukic in 5 minuti, Marotta Valai lo compra a differenza degli altri che ci mettono 2 mesi, babam babam babam, fino alla cessione di Vidal tutto bene, perché purtroppo Tevez non voleva andare via lui e Pirlo pure, quindi non c'era niente da fare. Il problema è che nel momento che hanno ceduto Vidal non c'era il sostituto pronto e sono andati avanti 2 mesi sul mercato cercando trequartisti che non arrivavano e cercando giocatori che costavano molto di più di quello che metteva la Juve. E lì ruota tutto, secondo me, l'errore di base, perché in questo momento tu devi sostituire non dal punto di vista tecnico o caratteriale, perché probabilmente non hanno cloni, come dicono tutti, però numericamente tu hai perso 2 giocatori titolari a centrocampo, Pirlo e Vidal, e ne hai acquistato uno rotto, che dire. Quindi al momento te ne mancano 2, se che dire torna uno. Quindi se no, è esattamente questo. Ragazzi, no, è esattamente questo, mentre intanto se la Juve non sta bene, neanche io, se ti detto Sisco. Sì, no, però devo preoccuparmi? No, tranquillo. Secondo me questa cosa di Vidal è verissima, nel senso che Vidal è stata un'opportunità di cessione, e anche questa tecnica. Guarda, io dal punto di vista, diciamo, della tecnica di mercato, ho capito tutto, tranne il Llorente a parametro zero, quello francamente proprio non l'ho capito. Il contratto anch'io. Quello non l'ho capito, perché per carità, bravissimo ragazzo, gli si vuole bene, veramente un gentiluomo, però insomma comunque era un valore che la Juve ha perso. Llorente un mercato lo poteva trovare, o comunque poteva essere fatto prestare con diritto di riscatto, se anche non ti arrivavano dei soldi subito, ti potevano arrivare fra un anno. Quella cosa francamente non l'ho capita. Detto questo, le altre operazioni ci stanno tutte da un punto di vista tecnico. Su Khedira c'era un punto interrogativo fisico, che subito ha trovato purtroppo per la Juve una conferma in negativo. Ecco, questo è un problema che si unisce al discorso di Vidal, ma è l'insieme delle cose, secondo me, che fa una Juve più debole rispetto a prima, e anche la congiuntura, perché sicuramente Marchisio ieri, se fosse stato al meglio, avrebbe dato un contributo. Però, se no gioca Padoin, Pier. Però sì, Padoin. No, Pier, però sono due. Il problema è che sono due. Il problema è che sono due insieme, cioè. Se l'anno scorso, perché poi la gente ha la memoria corta, allora Llorente non era più titolare, l'anno scorso era una riserva e quindi voleva andare via, non è che l'hanno ceduto perché si sono divertiti a lasciarlo andare via gratis, era una riserva e lui voleva giocare, perché l'anno scorso era una riserva di Morata. Ho capito Claudio, però normale che lo presti, con diritto di riscatto, sì, normalmente. Ma questo frega loro per le casse, a noi non ci interessa, è andato via gratis con 5 milioni, il problema è chi prendi. Il problema è a centrocampo, perché a centrocampo tu l'anno scorso avevi un Vidal irriconoscibile e Pirlo a mezzo servizio, però quando non c'era Pirlo magari c'era Vidal che faceva una buona partita, quando Vidal non giocava bene o non c'era, c'era Pirlo che magari risolveva il derby col Toro. Perdendone due insieme è evidente che tu, anche se hai Marchisio che sta bene, avrai sempre da far giocare uno Sturaro o un Padoin di turno, e quello è il problema. Cioè la Juventus aveva quattro giocatori, Marchisio, Pirlo, Vidal e Pogba, e abbiamo detto tutti per tre anni che era forse il centrocampo più forte d'Europa, e adesso improvvisamente nel giro di un'estate ha uno dei centrocampi invece più deboli, e quello è il problema. Sì, ma toglimi sto dubbio però, prima di Roberto da Ferrara e Matteo provincia di Modena, vogliono parlare tutti 800 24 00 24, ma la Juventus il trequartista lo vuole o no? Cioè, è Allegri che si è impuntato, è un anno che chiede il trequartista. Lo vuole, tra l'altro Draxler è andato al Wolfsburg per 34 milioni di euro. Troppo relax. Eh? Ha cercato con troppo relax, e devo dire che questo non è un problema soltanto della Juve, è il problema di chi vende e poi deve ricomprare. Cioè è quel vecchio proverbio, no? Chi lascia la strada vecchia per la nuova, molto banalmente. La Juve ha perso dei giocatori che hanno dato fino a 8 settimane fa un contributo incredibile alla causa e che si conoscevano. A me Mandžukić piace, io non penso che Mandžukić sia scarso. Dybala è un calciatore che rappresenta tanto e l'ha dimostrato in qualche modo già in queste prime uscite. Però poi Tevez è un'altra cosa. Oggi Tevez è ancora un'altra cosa. Magari fra un anno il rapporto di forza cambierà. Magari cambierà prima, magari cambierà fra sei settimane. La Juve ma comunque Dybala l'hai preso con netto anticipo e poi è andato via Tevez. Invece il centrocampista non l'hai preso e probabilmente adesso non lo prendi. Quello no, no, cioè, beh, cioè adesso si parla di Hernanes che è un buon giocatore. Però francamente vi posso dire, perché l'Inter dovrebbe dare Hernanes alla Juve in questo momento? Cioè Hernanes è uno che l'anno scorso ha dimostrato, penso che la faranno la trattativa, però secondo me sbaglia l'Inter in questo momento, sbaglia soprattutto in una prospettiva secondo me di concorrenza. L'Inter oggi ha 6 punti di vantaggio sulla Juve, non ha brillato sicuramente in queste due partite, ma ha 6 punti di vantaggio. Cioè tu dici perché deve rafforzarla? Cioè, perché secondo comunque me ha più bisogno la Juve di Hernanes che l'Inter di un altro giocatore per sostituire poi Hernanes, secondo me. Quindi io fossi in Inter non lo farei, anche perché Hernanes è un giocatore. Dopo i due favori delle prime due giornate qualcosa deve rendere, però dai. Potrebbe essere. Roberto, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei, dica. Beh, mi riallaccio un po' allo sporco dei bagni nella stazione Termini, che è simpatico. No, no, io non ho detto sporco, siamo sempre lì a cazzeggiare. No, dicevo, esco un po' fuori tema, nel senso che stavate disquisendo dal punto di vista tecnico, e io torno un po' terra a terra, perché di sporco, secondo me, ieri a Roma c'è stato l'ennesimo arbitraggio pro Juve. Io premetto, non sono tifoso romanista, sono milanista, e storicamente ogni volta che c'è uno scontro diretto, che sia Juve-Milan, che sia Juve-Napoli, che sia Juve-Roma, e ci sono degli arbitraggi, assolutamente ha un senso. Ieri la partita, per fortuna, la Roma l'ha vinta, che era nettamente superiore, ma se la Juve avesse giocato più o meno come la Roma non avrebbe vinto. Robo. È stato un rigore nettissimo, non dato dopo 30 secondi. Gestione dei cartellini col signor Chiellini, che ha fatto 78 falli, è stato ammonito peraltro quando non era 120. Io mi chiamo fuori. Chiamatemi Cesare. Chiamatemi Giuliani. Quindi abbiamo scoperto che non solo quando perdono, ma anche quando vincono riescono a lamentarsi degli abiti. Fantastico questa crescita professionale della città, diciamo. No, io voglio ricordare che la Juve nella finale di Champions League, non esattamente in una partita banale, ha avuto una situazione arbitrale al limite. C'è un calcio di rigore, sì, senza che arrivi la finale di Champions, visto che io sul tema non ci sono minimamente andato, ma visto che l'ascoltatore provoca, allora gli consiglierei di riguardare la partita, perché il rigore della Roma che c'è, peccato che prima c'è un fallo di Dzeko a centro area, quindi fischi per la Juve, il rigore non esiste. Dopodiché c'è un rigore non dato alla Juve per mano di De Rossi, che va ammonito e dopo è espulso, guarda un po'. Invece era fuori Giuliani. No, perché l'anno scorso sugli stessi episodi sulla linea mi hanno detto tutti che era dentro, quindi era dentro anche questo. Era fuori di qualche centimetro, era fuori. No, ma quello che voglio dire era uguale, però hanno fatto uno scempio arbitrale per 6 mesi, c'erano falli al limite dell'area. Invece qua vedo che fanno, ma ti ripeto, a me non me ne frega niente, infatti non ci sono andato. Però se uno vuol farlo spiritoso, Chiellini prende la palla quando piglia la munizione, quindi non fa neanche fallo. Mentre ci sono anche dei giocatori di Roma che forse andavano doppietti di giallo, la prima, e non andava ammonito la seconda. Okay, cerchiamo di saper vincere almeno quando si vince, almeno quello, dai. Questo è un tifoso del Milan, fra l'altro. Sì, appunto, non c'entra neanche niente, ma deve farlo spiritoso lo stesso. Vi vedo bene, ragazzi. Vi vedo stasera, ti chiedo che vi vedo però meraviglioso. Però c'ho Cesari. Poi ho anche Liguori e Mughini, quindi ciao. Claudio Zampini. Claudio. No, io vi dico solo una cosa, ma lo dico sempre, ma vedo che tanto non serve. Ma prendete esempio da Buffone, che ogni volta era successo quando aveva vinto la Roma 1-0, che c'era Totti che ha segnato il gol vittoria, che andava espulso per fallaccio su Pirlo. E Buffone a fine partita ha detto: abbiamo giocato male, ha meritato loro di vincere, punto, fine. Ma fate così una volta nella vita, soprattutto i tifosi che non c'entra niente con la partita di ieri, ma una volta nella vita, parlate della partita, invece di fare gli spiritosi per niente. Così magari cresciamo, così magari poi i bagni funzionano. Sentiamo anche Matteo, provincia di Modena, dai. Poi salutiamo Giuliani. Matteo, mi sto divertendo come un matto. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono abbastanza contento del mercato della Juve, perché ha preso il miglior difensore giovane italiano, che è Rugani, che era da suo. Ma io guardi, anticipo subito che il fatto che da tutta estate lo dico e lo confermo, anche oggi, secondo me la Juventus in questa ristrutturazione ha fatto benissimo. Poi pagherà dividendi non so quando, magari l'anno prossimo, tra due anni, però secondo me ha fatto benissimo a ristrutturare la squadra. Dica. Poi ragazzi, ha preso Cuadrado, che fino a sei mesi fa era considerato un crack, secondo me nel 4-3-3 è l'ala più forte del campionato. Inoltre il trequartista adesso con Cuadrado, a mio giudizio, non serve più. L'unico problema è che non c'è più nessuno che sa calciare le punizioni, perché Pirlo e Tevez erano unici, adesso ho visto che a volte le tira Bonucci, quindi a volte le tira Bonucci, quindi siamo proprio, servirebbe uno un po' più di qualità. Sì. Per il resto contento del mercato, perché Dybala può diventare un giocatore tra i primi al mondo, Cuadrado è fortissimo. Kedira, ahimè, Kedira sono due anni che non gioca, però attenzione. Kedira sono due anni. Lascio l'ultima risposta a Claudio Giuliani, poi ci fermiamo per la borsa. Dimmi, caro, non ho capito quella domanda. No, ma l'ascoltatore era contento della ristrutturazione della Juventus, secondo l'ascoltatore. Le punizioni le tira Dybala, c'è chi tira le punizioni a Dybala. Dybala quando la prima tocca. Giornata non ha giocato titolare, quindi le tiravano Bonucci e Pogba, ma se no il corner le punizioni le tira Dybala. Se lo fa giocare titolare, se lo fa giocare titolare è difficile. Certo, dalla panchina tira le punizioni è complicato. Che dire le prese agli spogliatoi, mi sa, perché ho sentito parlare il City della Nazionale Lo, che dice è normale, perché insomma paga ancora il crociato, quindi se secondo il City della Nazionale, infortunio che dire è normale, si è messi male. Grazie Cla. Grazie Claudio. Grazie Zigliani. Ragazzi. Ciao. Pier, ci vediamo per la borsa. Fermiamoci per la borsa, dai. Borsa, dai, poi torniamo. 800 24 0024, il numero verde. Ci hai derubato la partita, tu sei spagnolo, vero? Sì, me. Robbo di questo è Robbo. Su Pogba era rigore, Robbo. Neymar, Messi, Robbo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Convocati. Allora, sta arrivando all'Inter Felipe Melo, finalmente. Trattativa infinita, 3 milioni e mezzo più bonus al Galatasaray. Il Genoa ha rifiutato sempre dall'Inter un'offerta di 9 milioni di euro per Perotti, ultimo giorno di mercato, si chiude alle 23. Pierluigi Pardo ovviamente collegato con noi, formazione tipo, schema tipo, orario tipo, fino alle 3:30, tutti convocati, vogliamo tutti gli sportivi e le sportive d'Italia collegati con noi e poi stasera con Tiki Taka. Allora, abbiamo un allenatore primo in classifica, ma abbiamo anche i tre gol più belli della giornata, a cominciare da quello di Eder. Verticale per Eder, alle spalle di Albiol, Eder in area di rigore, grande finta ancora di Eder, Eder, finta e controfinta, Eder, Eder! Mamma mia! Mamma mia! Due minuti pazzeschi di Eder! E Zenga incatenato a Bogliasco, non lo lasciano andare via e sarà difficile che vada all'Inter. Baselli, Torino-Fiorentina. Baselli, salta Borja Valero, Baselli con il destro! Un gol fantastico di Baselli, 3-1 Toro! E poi c'è Birsa che incastra la palla nel 7 su punizione. Arte Birsa! Un'altra magia in questa serata pazzesca del Chievo! Pierluigi Pardo, abbiamo incontrato Rolando Maran, ti ricordi, no? A Vinitaly di persona. Adesso lo troviamo qui, primo in classifica. 6 punti, 7 gol segnati, 1 subito. Leggi oggi la classifica sui giornali e Chievo è primo. Buongiorno, mister. Buongiorno a voi, buongiorno. Come va? Bene. No? Mica male. Pronto per questo testa coda, il più classico dei testa coda contro la Juve, non me ne vorrei. Dicevo ieri che sembra che si sia ribaltato il mondo, perché vedere una classifica del genere, anche se sono passate due giornate sola, però mi fa piacere, ci godiamo questo momento. Eh sì, io ci credo. Il campionato rimane sempre lo stesso comunque. Però partiti benissimo, da ogni punto di vista, da ogni punto di vista, sì, realizzativo, difensivo, dal punto di vista del gioco. Ma anche perché se il mister ci proporrà il classico refrain dei 40 punti, non so mister se quest'anno ci si può spingere un po' più in alto, oppure se la frase è questa, 40 punti, insomma anche statisticamente, il 15% del lavoro è già fatto, insomma, e non è male, no? No, non è male, assolutamente, però credo che non dobbiamo in questo momento cambiare quelle che sono le nostre mete, le nostre mire, i nostri obiettivi, perché comunque sappiamo che al di là della buona partenza sappiamo che la strada è ancora lunga. Sembra sempre le solite frasi, lo so, mi rendo conto, però il Chievo non può ragionare in maniera diversa. Io sto leggendo un messaggio: il Milan cerca giocatori, i migliori di questo avvio sono Saponara, Birsa e Paloschi, scrive Luciano da Como. Certo che Paloschino tutte le volte che lo mette mister fa gol, almeno uno. Ha cominciato bene per lui. Io l'avevo detto prima dell'inizio del campionato che speravo fosse il suo anno, lui sta confermando tutte quelle che erano le nostre aspettative, mi sembra. Anche gli altri, perché anche Maggiorini è andato già in gol due volte, che non è un giocatore che ha fatto molti gol negli anni, e anche Pires ha fatto due reti, perché sono i tre nostri attaccanti stanno dando un grande contributo. Sì. Ecco, stasera viene Tiki-Taka, speriamo che non si monti la testa. No, io la domanda che volevo fare è Paloschi. Ah, Paloschi. No, la domanda, cioè, c'è modo e modo di vincere due partite, e mi sembra che il Chievo non solo abbia fatto 6 punti, ma ha fatto 6 punti segnando 7 gol, dominando, insomma, questa cosa qui lascia, magari lei non mi può rispondere, farà degli scongiuri, ma lascia pensare che insomma si sia di fronte a qualcosa di un po' diverso rispetto agli anni scorsi, che sono stati comunque positivi, perché il Chievo poi alla fine si è sempre salvato, tranne un anno della sua storia, ma si è sempre salvato quasi sempre con grandissima tranquillità, quindi. Però insomma, mi sembra che sia un po' più, sia un po' mutato lo scenario in positivo. Ma io diciamo che ci piacerebbe confermare questa impressione, però va confermata sul campo di partita in partita. Adesso questo inizio fa ben sperare tutti noi, però abbiamo tutto da confermare. Mi auguro che tra qualche settimana, tra qualche mese, siamo qui a fare gli stessi discorsi, e allora vuol dire che probabilmente quello che stai dicendo in questo momento era giusto. Mister, quanto è indicativo questo avvio di campionato nel complesso, con i risultati che abbiamo visto, la Juventus ultima in classifica, il Chievo primo, quanto è indicativo prima della fine del mercato con la sosta della nazionale? Ma lo è poco, perché se andiamo a vedere appunto la classifica in questo momento, probabilmente ci sarà il tempo per modificarla tanto, perché se pensiamo che la Juve sia a fare di coda, non può essere come le altre squadre che stanno male dietro in questo momento. Sicuramente dalla sosta in poi vedremo un altro campionato. In questo momento sono squadre come il Chievo che ha approfittato di questo momento, dove hanno cercato di raccogliere il massimo e si sono riuscite. Pier, che impressione ti ha fatto la Lazio ieri? È stata presa a pallonate, 4-0 per il Chievo è addirittura stretto, perché ieri poteva finire molto peggio per la Lazio. Guarda, io l'ho commentata contro... Prego mister. No, non è vero, hanno avuto un'occasione importante all'inizio che magari poteva cambiare il corso della partita, anche se dopo la prestazione da parte nostra c'è stata e c'era tutto il tempo per rimontare, però la Lazio era partita bene che contro di noi. Pian? Sì, io penso, guarda, io l'ho commentata in Germania contro il Bayer Leverkusen, sì. E francamente mi ha fatto un po' impressione, perché aveva fatto anche, secondo me, non un cattivo primo tempo, anche lì, no? È un po' come il discorso che faceva onestamente e correttamente il mister ieri. Ha avuto un'occasione con un calcio di rigore che ci stava, e comunque i primi 40 minuti non aveva sofferto più di tanto, a parte una traversa, ma insomma nel momento in cui sembrava in controllo ha preso questo primo gol assurdo con questo errore di De Vrij e questo flipper veramente sfigato. Penso che ieri fosse sotto shock dal punto di vista psicologico, e chiaramente non può essere un alibi, non può essere un attenuante, però è, secondo me, la verità è quello che è successo. La squadra è buona ma non ottima, è una squadra solida. Pioli lo scorso anno ha beccato un grande feeling, una grande soprattutto condizione atletica nella seconda parte della stagione. Io non penso che la Lazio farà un brutto campionato, io penso che la Lazio farà un campionato però da sesto settimo posto, questo, davvero in quella dimensione lì, francamente. L'ultima per Orlando Maran, per quanto mi riguarda, diceva prima Pardo, tempo di debiti scolastici, la prossima Juventus Chievo e della Juventus ad essere in debito, fa impressione vedere la Juventus così o no? Sì, fa specie, perché la posizione ha sempre, negli ultimi anni soprattutto, dominato il campionato dall'inizio alla fine, per cui vederla così fa specie, sì. Qual è il problema, un'idea? Non è difficile parlare in casa d'altri. Io mi auguro che il problema lo risolvano dalla terza giornata in poi. Certo, dalla quarta. Dalla quarta. Prossima ancora problemi. Pier, l'ultimo al mister. Sì, l'obiettivo qual è? Dai, adesso senza giocare con la scaramanzia e con la prudenza. Un inizio così avrai un obiettivo. L'obiettivo è sicuramente, io sono sempre un ottimista, cerco sempre di puntare al massimo, di non precludersi mai niente. Ecco, il massimo qual è? Il massimo è stare sempre fuori da quello che è la zona rossa e vedere dove si arriva poi quando c'è la metà sinistra della classifica. Sarebbe un sogno. Grazie mister, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Rolando Maran. Allora stasera poi arriva il bomber da te, Paloschi. Sì, no? Arriva Paloschi, no? Che comunque ha questa storia interessante, questo famoso gol dopo pochi secondi ai tempi di Ancelotti. Ed è vero quello che dice Maran, cioè un giocatore che ha dato sempre la sensazione di essere sul punto di sbocciare definitivamente, sì. E non l'ha mai fatto del tutto. Non ho mai capito bene se per motivi, diciamo, caratteriali, di personalità. Però mi sembra che sia arrivato il suo momento. Questo è un inizio di stagione eccezionale, come direbbe Pizzi. Sì. Devo dire anche che anche Meggiorini, ecco, esatto, anche Meggiorini, che non è mai stato un bomber, al di là dell'assist pazzesco di ieri, è veramente un giocatore rifiorito. Ma insomma, sai, Chievo è una buona squadra che cambia poco, che ha dei punti di riferimento, che ha poca pressione, vero. Che ha un bravo allenatore, cioè, non è un caso, quanto io sono di quelli che si incazzano quando sente il miracolo Chievo, perché il miracolo Chievo può essere un miracolo dal punto di vista del marketing, del merchandising, dei bacini di utenza, di tutti i discorsi giustissimi che fa Belinazzo, ma dal punto di vista strettamente tecnico è tutto meno che un miracolo, è proprio anzi una delle cose più logiche del nostro certo caso. Ma anche perché dicevi bene prima, è una squadra che ha cambiato pochissimo, che è ripartita da un buon campionato dello scorso anno. E quindi è quasi logico questo avvio di campionato del Chievo, al di là dei 4 gol alla Lazio, dei 7 gol segnati, del punteggio pieno e di tutte queste cose. Allora Pier, sei pronto per gli ascoltatori? Vai. Dopo il traffico poi Raffaele, Ivano, Enrico, ce ne sono un sacco oggi. 800 24 00 24, vi aspettiamo tutti qui. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, prima di andare da Raffaele, Ivano, Enrico, Pierluigi Pardo, volevo chiederti due considerazioni. Una sull'Inter, che la vedi a punteggio pieno. È vero, Jovetic al 94esimo alla prima, Jovetic al 45esimo secondo tempo alla seconda. Non piace, non è bella, è un trattorone, mancano dei giocatori, però intanto punteggio pieno insieme al Chievo di qui sopra. E la seconda è sul Torino, perché Torino, seconda vittoria in rimonta, io ti dico la verità, a me il Torino piace moltissimo, ma non è un segreto perché ne abbiamo parlato molte volte anche nel corso dell'estate. Però abbiamo messo e tutti hanno messo un po' di pressione addosso al Toro e sinceramente una via di questo tipo, due vittorie in rimonta, quella di ieri sulla Fiorentina bellissima, forse erano difficili da immaginare. Beh, allora, il Toro è un progetto nato da un po'. Cairo, secondo me, è un fenomeno, posso dirlo, nel senso che secondo me è un presidente bravissimo. È chiaro che in certi momenti i tifosi del Torino, abituati a una storia, una tradizione leggendaria, vorrebbero il salto in avanti, ma se guardiamo quello che succede regolarmente con i giocatori del Torino che partono, auguriamo tutto il meglio a Darmian, che fra l'altro non ha iniziato male, ma se pensiamo a quello che è successo per esempio a Cerci Immobile e come il Toro invece riesca a pescare bene, benissimo, beh, insomma è un capolavoro, nel quale c'è il merito di Cairo, c'è il merito di Ventura e c'è anche il merito di un ambiente comunque eccezionale, secondo me, perché comunque a Torino, anche se sei qualche volta nella parte destra della classifica, ti senti sempre di giocare in una grande squadra, perché è grande per storia, tradizione, tifosi, calore. Quindi in questo momento c'è questa bella congiunzione astrale. Quanto potrà durare, quanto e dove porterà non lo so, ma credo che il Torino, ecco, possa tranquillamente collocarsi a sinistra in classifica. Mi mette quel film Cucun, no? Tutti quelli che vanno lì fanno il bagno nella piscina e tornano ad essere o diventano dei super giocatori, E qui c'è Ventura, qui c'è Cairo e c'è, secondo me, proprio il l'ambiente, anche un certo tipo di magia, secondo me, che si è creata. Cioè, secondo me la notte di Bilbao, la vittoria con la Juve l'anno scorso dopo 20 anni, cioè l'anno scorso sono successe delle cose, anche se poi la squadra non si è qualificata per l'Europa, ma sono successe delle cose che secondo me hanno aumentato l'autostima dei giocatori, il feeling fra allenatore e piazza, anche lo stesso Cairo, insomma non si sente più nessuno che gli dà del braccino. Hanno capito che forse uno dei successi del Torino nasce proprio dal fatto che Cairo certe operazioni le ha fatte in uscita e le ha sapute fare meglio in entrata. Per quanto riguarda l'Inter invece, Hegel, tutto ciò che è reale e razionale è viceversa. Cioè se l'Inter è lì, non può essere un caso. Io ieri sera ho commentato a Diretta Premium Carpi Inter, non è proprio che sia un Inter che mi faccia impazzire, ci sono un paio di situazioni arbitrali per onestà che devono essere sicuramente sottolineate, quindi insomma diciamo l'Inter in queste due partite fra Atalanta e Carpi ha avuto un po' di fortuna a avere 6 punti. Però appunto la fortuna che cos'è nel calcio? Alla fine conta il campo, certo. Conta il campo, quindi se l'Inter è lì è perché evidentemente ci può stare. Non so per quanto durerà, credo però che senza brillare, però questi episodi le diano adesso una tranquillità, una serenità per dirti di arrivare al derby. Beh, è chiaro ecco, al derby adesso a 2 risultati su 3, diciamo, per non perdere questo tipo di feeling, se anche dovesse pareggiare il derby va a 7 punti dopo 3 giornate, rimane lì davanti, cioè, sai come diceva quello là, meglio vincere che perdere, no? Assolutamente. Tanto ve le do così come le vedo. Soriano al Napoli, a fare vicino alla Sampdoria dovrebbero andare Zuniga e 13 milioni. Poi c'è questo... deve scegliere fra Soriano ed Eder, quale se sacrificarne uno. Sì. E secondo me si tiene Eder. Secondo me si tiene Eder pure, anche perché anche qui i segnali sono tutti nella stessa direzione, cioè Eder non si muoverà. Chi è questo Marital che va allo United, 19enne per 50 milioni? Ma hanno proprio i soldi da buttare via da quelle parti. Cioè, Marital. Era c'è il Monaco, un figlio di 19 anni, possiamo provare a spacciarlo. Sì, basta chiamare in Inghilterra, ma meno di 30, però non alziamo neanche la cornetta. Se l'offerta è minimo 30 milioni per chiunque, anche per De Luca. Raffaele da Treviso, buongiorno. Buongiorno, io sono Raffaele. Innanzitutto volevo dire una cosa a proposito di Marital, che è un giocatore semi sconosciuto. Il Chelsea, dopo tante possibilità di acquisto, tanti nomi altisonanti, ha acquistato, se non sbaglio, ho sentito prima su Sky, un certo Joe Gil, un giocatore semi sconosciuto, tra lo stupore di Mourinho. Questo così è una nota, tanto per dire che appunto gli affari strani. Io sono un tifoso del Napoli, devo dire, però abbastanza sportivo. Onestamente volevo porre la domanda a Pardo, anzi volevo porre due domande a Pardo. Io ho Sky da una vita, però non ho mai visto Pardo in televisione, prima cosa, non lo so. Avora Mediaset, prima era Sky. Fino al 2010 stavo lì e adesso per 5 anni sto Mediaset, quindi se non mai, cioè, se magari mi sei abbonato a Sky perché mi volevi vedere, cambia. Beh, basta, c'è Tiki Taka, no? Tanto. Fali tutte e due. Ok, d'accordo, non era questo. Comunque guarda, sono alto, magro, con gli occhi azzurri, Okay. Muscoloso. Ok, d'accordo, ti credo. Ascolta, no, io milanese, soprattutto milanese di nascita. Quello sicuramente sente dall'accento proprio. Certo. No, volevo dire questo. Non capisco onestamente molto il campionato del Napoli, pur dando fiducia a Sarri, perché dopo due partite sarebbe assurdo cambiare un allenatore, però non ho capito onestamente, non so, o sarà la preparazione, o sarà la mentalità, o sarà quel che sarà, non riesco a capire onestamente come mai una squadra che dopo 15 minuti a Sassuolo, dopo aver disputato una grande partita, cioè dopo 15 minuti straordinari, si spegne completamente e dà via libera ad una squadra come il Sassuolo, che poi merita di vincere. Ieri la stessa cosa, per un tempo ha giocato bene, secondo me non in maniera eccezionale, comunque bene, e nel secondo tempo si è letteralmente spenta, rischiando addirittura di perdere la partita. Non capisco neanche i cambi fatti da Sarri, oltretutto ad esempio nella prima partita il fatto di togliere Higuain e mettere Gabbiadini, quello non l'ho mai capito, non ho capito neanche le sostituzioni che sono state fatte da Sarri appunto ieri, in un momento in cui forse il Napoli avrebbe avuto bisogno di un giocatore. Sì. Un giocatore praticamente che prendesse praticamente in mano. Io non ho mai capito l'inserimento di Jorginho, che nel Napoli secondo me non trova sicuramente Varchi, non è un giocatore. Beh, però ieri un po' di più di 15 minuti, ieri ha giocato una cinquantina, 55. Ieri parlavo di Sassuolo, col Sassuolo, sì, ieri sono stati 45-50 minuti, dopodiché praticamente il Napoli si è sparito. A me è piaciuto tanto il fatto che alla prima Sarri se la sia presa con le nazionali, che questo è il motivo per cui ha sostituito Higuain, che è arrivato molto tardi, causa gli impegni con la nazionale argentina, ieri ha detto che faceva caldo. Questo non mi piace tantissimo. Sì, qui ci sono una serie di cose da dire. La prima è che le partenze di Sarri storicamente sono lente, però questa cosa si sapeva, lui ne aveva parlato, sembrava che la preparazione fosse stata cambiata per partire veloce, e così non è. Seconda cosa è, secondo me, il fatto che comunque quando tu fai un contratto di un anno a un allenatore, oltretutto un allenatore esordiente a questi livelli, un po' di fiducia gliela togli, no? Un po' di terreno, un po' di, non gli dai una grande mano nel rapporto con i giocatori, nel rapporto con l'ambiente. Quindi questo è un problema che chiaramente in caso di grande partenza non si sarebbe creato, invece adesso si potrebbe creare. E poi per il resto ho detto, insomma, secondo me, io ieri ho visto la Roma di Zeman, ho visto una squadra che non riesce a gestire le energie, che spende troppo. Certo, ma però ci aspettavamo un Napoli diverso, Pierre. Le grandi squadre le partite le vincono delle volte aspettando, cercando di capire qual è il momento giusto, gestendo il ritmo, abbassandolo o alzandolo. Questa cosa non è successa. Comunque la strada è lunga, il potenziale offensivo, cioè da un punto di vista tecnico mi sembra che siamo al punto di partenza, cioè il Napoli ha un enorme potenziale offensivo e ha dei limiti evidenti dietro. E cambiano gli allenatori, ma non cambia la sostanza. Sì, però poteva cambiare, questo ce l'aspettavamo, il modo di interpretare difensivamente le partite, perché quante volte abbiamo detto ok, quella linea difensiva non è il massimo della vita, però l'anno scorso con Benitez era una squadra spaccata in due, esposta ai 1020 di tutti gli avversari. Onestamente un Napoli un po' diverso ce lo aspettavamo in avvio di stagione, senza dimenticare il fatto che è passato in vantaggio due volte, addirittura in doppio vantaggio. Ivano, Milano, abbiamo ancora 1:15, ultima risposta. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Poi però abbiamo ancora mezz'ora, attenzione, stiamo qui, dobbiamo salutare Pardo che deve tiki tagheggiare. Dica. Sì, buongiorno gente, senta, sarò velocissimo. Il Milan aveva bisogno di rinforzarsi a centrocampo. Ha comprato di tutto, di più, cose che non servivano, e al centrocampo non ha comprato niente. Sarà che il signor Gagliani è un incapace? Sarà che siamo l'unica società senza un direttore sportivo serio? Mi sembra che i difensori servissero e... Non è che Gagliani... Cioè, il Milan l'altro giorno ha vinto la partita con i gol di Bacca e Luis Adriano. Allora, io posso essere d'accordo sul fatto che ha speso un sacco di soldi il Milan e probabilmente alcuni nodi non li ha tolti, però Gagliani è lo stesso che compra Bacca, Luis Adriano, e che vince la partita l'altro giorno. Sì, certo. No, questo è un discorso di onestà intellettuale. Poi ci sono delle cose che mi convincono meno, sicuramente la qualità del centrocampo, ma io da quello che so il Milan stava ancora cercando un grande centrocampista che probabilmente non arriverà, adesso mancano poche ore. Però Bitzel era un obiettivo, sì, no? Lo vuole in prestito, ma mi sembra che per in quei termini non si possa fare. Pierre, ti vedo stasera, che ora? 23-40, 23-40. Super, Liguori, Mucchini, Brienza, Zampini, Paloschi, Jake La Furia, Calpegno, Satta, grande casino, Auriemma, grandi discussioni, Anna Trieste da Napoli, di tutto. Ci sentiamo domani alle 2, eh? Sì, senz'altro. Ciao Pierino, ciao Pierpardo. GR, ma poi torniamo per mezz'ora, naturalmente, orario di tutti i convocati, 800-24-0024. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Tutti convocati. Rossi, la moto gli dà uno scossone. Sono due buffetti, una carezzina. Rossi c'è e vince Petrucci. Davanti a Petrucci e Dovizioso, storica tripletta italiana, Rossi, Petrucci e Dovizioso, bravi! Fortunatamente è iniziato a piovere e poi da lì mi è sembrato di dover andare tipo in Austria da Tavuglia, perché è stata lunghissima, però mi trovavo bene, la mia moto era fantastica. Speravo nella pioggia che mischiasse le carte, però cavolo, la mischiate per bene. Ho alzato, preso il jolly e partire dalla 18ª posizione non era per niente facile, però alla fine è stata una figata. Sono davvero contento perché la gara è stata molto difficile, tante cadute, e partivamo in quarta fila, ma se andate a guardare la mia partenza ormai centro il muro, perché mi è partita di traverso nello stacco e forse ero quasi ultimo alla prima curva, sono riuscito a recuperare. Gli ascoltatori intimano, Nicola da Mantova, parliamo del 46, Marco da Juventino, possiamo parlare di Rossi del podio italiano? Sì, certo, lo facciamo. Due settimane fa eravamo dopo Brno, eravamo qui con tutti i dubbi del mondo, li abbiamo espressi, adesso siamo tutti qui a cantare Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'Elmo di Scipio se cinta la testa e Valentino se cinto, di una vittoria importantissima. No, non voglio pronunciare il numero che potrebbe arrivare. Paolo Beltramo, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Beh, Silverstone non ha mai vinto. È piovuto, li ha pettinati tutti e adesso, dopo due settimane in cui, dopo l'aggancio di Lorenzo, avevamo tutti i dubbi del mondo, adesso quei dubbi che fine fanno? Ma io sono convinto che si esageri sempre un po', si esagera a mettere in crisi Lorenzo, si esagera a mettere in crisi Rossi, si esagera magari certe volte anche un po' per sopravvalutazione del market di quest'anno. Cioè io sono dell'idea che prima di vendere la pelle di Rossi bisogna avercelo veramente matematicamente escluso dalla lotta per il mondiale. Soprattutto quest'anno, soprattutto con queste condizioni tecniche, sono 16 volte consecutive che fa il podio, 12 quest'anno, quindi un rendimento incredibile. Lui sa che questa è un'occasione probabilmente difficilmente ripetibile, o comunque anche se dovesse esserlo, chi lo sa, intanto vediamo di prendere anche questa. Ha fatto una gara strepitosa, secondo me la fantasia, l'approccio un po' meno scientifico di quello di Lorenzo, che gli consente di adattarsi meglio alle situazioni impreviste, ecco. Sì, perché Lorenzo, ma Valentino l'ha detto, no? Sul asciutto magari andava più forte di me, magari non vincevo questa corsa, però guarda un po', pioveva. Come diciamo che adesso considerare il fatto che piovesse una fortuna mi sembra un po' stiracchiato, perché pioveva anche per gli altri, non certamente, anche certamente, per male, ecco. Certamente. È andato più forte, non ha sbagliato Marquez, secondo me non è caduto per colpa sua, però quest'anno sta pagando con, diciamo, della sfortuna eccessiva, cade sempre in gara, mentre l'anno scorso cadeva spesso ma in prova, in gara invece andava dritto, usciva, rientrava, cioè gli andava sempre bene. giusto sarebbe una via di mezzo, però anche se è fortissimo, solo che adesso ha 77 punti di distacco, è fuori, no? Con 150 fuori. Da in palio, è come dire che gli altri due dovrebbero perdere più o meno tre gare a testa e lui vince le tutte e tre e andrebbe appena davanti a Lorenzo e ancora un po' dietro Rossi, insomma, per cui. Sì, senti Paolo Beltramo, qualche tempo fa ho letto un'intervista a Danilo Petrucci, il quale, che è un personaggio anche originale, il quale diceva: o riesco ad andare sul podio, ad essere uno che conta, eccetera, oppure scendo dalla moto e vado a fare un altro mestiere. Secondo me Petrucci è un personaggio fantastico nella sua normalità, nel senso appunto, è uno spiritoso, allegro, fa ridere, ma è molto serio, è molto, e capisce l'occasione, la fortuna che ha, ecco, siccome non è un miliardario, è uno che la famiglia eccetera, ha fatto dei sacrifici economici anche per arrivare lì, si sente in grado di essere un professionista della moto, non ha mai detto che potrebbe vincere, che va più forte di Marquez, però di essere uno che ogni tanto appunto il podio se lo gioca, uno bello consistente come lui. E sono molto contento che abbia dimostrato di saper sfruttare con una moto meno aggiornata, che però sul bagnato andava va benissimo, cioè la Ducati di inizio 2014, un'occasione. È partito 18° ed è arrivato secondo, quindi grande Petrux. Grande Petrus, certo. Senti, un'ultima cosa, Paolo. Adesso, dopo quello che è successo ieri a Silverstone, facile immaginare come Misano sarà una specie di Maracanà. Sarebbe bello che Misano si trasformasse appunto in Misanino, non so, una cosa così, con un tifo pazzesco. Ieri era pieno Silverstone. Comunque Rossi a Silverstone non aveva vinto soltanto perché ci si corre da 4-5 anni. Prima si correva Donington, se no io credo che negli anni d'oro avrebbe vinto anche a Silverstone. Comunque insomma Misano, tra questa domenica Monza, poi Misano, diciamo che sono i 10 giorni dei motori d'Italia, dopo il podio tutto italiano con Dovizioso, poi la Ducati, insomma, su 5 cose italiane, 2 moto e 3 piloti. Sì. C'è un po' intrusa la Yamaha. Senti, c'è un ultimo numero che è 11. Sai anche tu cosa vuol dire? Le vittorie che separano Valentino da Giacomo Agostini. Certo, sì. E poi c'è anche 112, che poi vuol dire 112. Sì. Io non so se quest'anno riesce a portare a casa ancora 3, diciamo. E dopo, secondo me, l'obiettivo di carriera diventa quello. Ma sì, perché no? Cioè, d'altronde i record sono fatti per essere battuti, lo dice anche Agostini, che però in realtà tiene per Lorenzo perché non vuole. Mi aspetto di rivederlo in moto, Mi aspetto di rivederlo in moto, Agostini, pur di non aggrappato con le unghie al record. è difficile comunque, perché adesso non sono più anni in cui si vincono 7-8 gare, però Vale quest'anno è già arrivato a 4. Mica sono poche. Con il Misano Maracanà che ci aspetta dietro la prossima curva, hai visto mai. Paolo, grazie. Vai, prego, ciao Paolo Beltramo, grazie ciao, mille. Ciao. 800 24 00 24, signore, adesso tra poco vi porto nel posto più bollente oggi, il Maracanà del calciomercato. Antonello Parma, buongiorno. Buongiorno, mi senti? Sì, pronto, buongiorno. Brevemente, grazie di avermi chiamato brevemente. Sai che la Juventus ha preso Hernanes? Sto leggendo adesso. La Juventus prende Hernanes dall'Inter a fare ai dettagli, operazione quasi conclusa sulla base di 11 milioni per una cessione a titolo definitivo, signori. Mentre la Nokia ha rifiutato il Southampton, mentre Borini è andato al Sunderland, arrivano queste notizie dal mercato. Dica. È una minusvalenza per l'Inter, perché comunque l'aveva pagato 12 milioni e penso che una volta questa operazione qua le faceva l'Inter. Quando Lotito disse che era una gabbata per l'Inter aver venduto Hernanes a 12 milioni. Guadagna anche molti soldi, guadagna anche molti soldi. L'Inter deve sfoltire, ma sono d'accordo con quello che ha detto prima Pardo, perché comunque darlo alla Juventus sono cose che magari qualcuno non gradirà. Sicuramente, ma in Comancini avrebbe giocato pochissime volte. lui a Felipe Melo interessa giustamente. Preso Felipe Melo, è 3 milioni e mezzo appunto. Più... Appunto, lui Felipe Melo interessa che in Italia non ha fatto niente. Morale, io avevo telefonato per rispondere a Giuliani che diceva che si attaccava ancora al fallo di Pogba in finale, però comunque vedendo le immagini, secondo me ha cominciato prima Pogba a spingere, secondo me era un concorso di colpa. E comunque vogliamo ricordarci come è arrivata in finale la Juve, che praticamente gol in fuorigioco col Malmo, biscotto con l'Atletico e poi dopo un rigore che contro contro la Juve per il Monaco. Sì. E poi dopo uno juventino che se la mette dell'arbitro è come allora per arrivare in finale di Champions League ci vogliono episodi, ci vuole fortuna, ci vogliono tante di queste cose. Anche l'Inter dei triplete ne ebbe, basta chiedere a Carlo Ancelotti che era allenatore del Chelsea. Ci vogliono tutte queste cose qui. Poi siamo andati avanti a ripetere una vita che la Juventus non vinceva in Europa perché in Italia gli arbitri eccetera eccetera. Insomma, sono colpi di fortuna, io la rubricherei sotto questa definizione, che ci vogliono per arrivare in finale di Champions League, quindi non starei neanche tanto lì a rivangare e a fare la moviola indifferita di 4 mesi su quell'episodio di Pogba. Pasquale Foggia, buongiorno. Pronto, buongiorno, chiamo da Gargano. Gargano, meraviglioso. Allora, io ho due cose da dirvi. Stasera si chiude il calciomercato e io da tifoso del Milan voglio sapere se il Milan farà un grandissimo colpo questa sera. No. E poi la seconda è questa: il Milan dopo la nazionale c'è una grande partita contro l'Inter e sarà capace con il tridente Balotelli, Luis Adriano e Bacca a fermare la difesa dell'Inter? Io non credo che li vedremo tutti e tre in campo insieme, né nel derby né più o meno mai. Balotelli, Bacca e Adriano è difficile immaginarli in campo insieme. Non credo che il Milan farà colpi rivoluzionari questa sera, mentre da ogni parte viene confermata questa notizia di Hernanes che sta per passare dall'Inter alla Juventus. Quanto riguarda il Milan si continua a parlare di Witzel, però è un giocatore che costa molti soldi e che il Milan vorrebbe in prestito, la vedo dura. Eccolo qui, Tancredi Palmeri, dal luogo più bollente del mondo. Ciao! Buongiorno ragazzi, sì, non solo perché ci sono 40 gradi quasi e l'asta qua a Milano, che veramente siamo preparati per l'ultimo giorno. Sì, com'è lì? Cosa succede? Raccontami qualcosa, cosa vedi? Com'è vestito allora, Damiani? Dov'è D'Amico, il mio procuratore? La mia procura in tasca, Damiani, non mi ha ancora trovato una squadra. Detto così mi sembra come quando Rino Banfi dal bar, l'allenatore del pallone, incontrava i procuratori. Ma effettivamente non è molto diverso. Tu sentirai questa cagnara di sottofondo, che è un po' la cagnara, il bruttio che c'è sempre nella hall dell'Ata Hotel, e in verità c'è anche molto anche fuori, perché ci sono gli avventori, però questa è anche, diciamo, l'ora di spacco, quella oretta e mezza, due ore, tra le due e le tre e mezza in cui si prendono respiro. Infatti per ora gli avventori del lato hotel, quelli però gli addetti ai lavori anzi, si dividono tra qua e Corso Como, non perché stanno cercando una scrittura o qualcosa di meglio dagli uffici di Corona, ma perché sono disseminati, insomma, per tutta pranzo. Milano, cioè pausa pranzo. Mi vedo già lo Tito, è dietro lo Tito, però non mangia più. Non lo so, dipende. Una vasca di cacio e pepe. Non so chi accetta i ticket restaurant, poi bisogna vedere quello. Senti, ma risulta anche a te questa di Hernanes che è stato preso dalla Juventus? Sì, effettivamente sì, l'unica, però manca ancora capire il quantum, però effettivamente sì, certo, non so se questo, se dare la notizia a quest'ora faccia gioco ad ausilio, perché ammesso e non concesso che Ferrero gli finisca per concedergli Eder, però con nuovi soldi che arrivano per Hernanes e con la doppietta ieri di Eder si alza ulteriormente il prezzo, per cui di solito lo vediamo in giro, come dire, maniera saggia di agire e cedere quando già hai in mano l'alternativa. Se sembra come, insomma, che sia ancora non in alto mare, ma ancora da portare a termine la trattativa per Eder, io non so quanto sia, insomma, saggio aver già fatto capire, aver già annunciato che, insomma, la situazione si è definita per Hernández. Sì, comunque rimbalzano voci di un incontro imminente tra Ausilio e la Sampdoria per Eder. Cioè, ci dovrebbe essere anche Zenga al mercato, l'hai visto? Alle bretelle blucerchiate? No, perché lui si tiene a debita distanza da qua. È in corso Como. Guarda, allora a Visterò vedrò se le bretelle si sbrilluccicano con il sole dei 40 gradi, però lui si aggira più nell'hotel zona Repubblica Stazione, dove c'è Ferrero, dove, insomma, ci sono gli incontri per Eder. Però vedi, per esempio, la Juventus stamattina ha avuto un ulteriore, non è lei la parte attiva in questo caso, ma è stata ulteriormente, che non si stanca, proprio si può dire in romanesco, sì, dal Chelsea, ulteriormente contattata, perché il Chelsea non si stanca per Pogba, proprio non si stanca. Non si stanca, 80 no, più Oscar, leggevo, tanta roba, tanti, sono tanti. A me risulta che, visto che la Juventus non aveva accettato l'ultima proposta dove modulavano i giocatori, il Chelsea ha detto siamo pronti anche ad alzare ulteriormente l'offerta, quindi addirittura arrivare tipo a 130 milioni. Mamma mia. Non si stanca, proprio non si stanca. Non infatti si stanca. Che mi dicono che sia piuttosto attaccato al cellulare Pogba in ritiro con la Francia in questo momento. Però sì, vedi, ammesso e non concesso che la Juve accetti, secondo me, io non credo, non ci posso credere. No, io neanche, probabilmente non è nemmeno nelle condizioni in questo momento di fare una cosa. Sicuramente non lo genere farebbe prima di avere in mano le altre opzioni. Che a quest'ora mi sembra un po' tardi. Pausa pranzo. No, ma tutti. Io non so, sai, non sono mai stato al calciomercato. Mi sembra, okay, vedendo le immagini, mi sembra una specie di girone dantesco, no? Io vedo le immagini, guarda, i procuratori e i maneggioni e qualche signorina, anzi diverse signorine, a dire la verità. Guarda, quello forse di più quando verso le mezzanotte si diradano, ormai, penso che in questo momento il tasso di testosterone è troppo alto, quindi non sarebbe troppo difficile. In questo momento c'è la sala bar del lato hotel, dove tutti i tavoli sono occupati, e circa una decina di avventori che sono al bar. Poi nella hall, però fai conto che nella hall c'è sempre gente che parla al telefono con tutti i convocati, gente che parla con altre persone, ci saranno tipo una trentina di persone, tutti i divani che sono anche occupati. Questa è la hall. Poi in basso, invece, adesso nel lato hotel, da due anni a questa parte, c'è un'area dove ogni squadra ha il suo cubicolo, il suo modulo, e là non vi si può accedere fino al rintocco, fino alle 11. Prima invece era al primo piano del lato hotel, dove le camere d'albergo diventavano poi non lo so. Poi ogni direttore sportivo aveva i suoi metri, vuol dire, l'abbiamo conosciuto in passato, senza fare nomi famosi o famosissimi, però insomma, vuol dire, ti divertiti da lì a... Porca miseria, io mi sento tantissimo. Saluta mio amico Luca Marchetti, se lo vedi, che da domani è in ferie fino a gennaio. Ci credo, guarda, dovrebbe essere, credo che l'abbiano rapito. Di andare in sì, credo che abbia un contratto capesso per andare in onda per le prossime 42 ore consecutive, finché non viene proprio. Cioè, guarda, ogni tanto c'è, adesso ancora non l'ho visto, però il migliore di tutti era questa figura, sì, questo qua, che praticamente io non lo so cosa fosse, una sorta di direttore sportivo alto. Io credo che lui pensasse di essere un calciatore, però un uomo stempato, diciamo sui 35 e passa, piuttosto anche pingo. In questo senso è entrato anche un campione del mondo, perché è stato Marco Amelia nel lato hotel, anche piuttosto pingue, che per 3-4 sessioni di calciomercato veniva, si sedeva al bar con un cartello davanti scritto proprio col pennarello, ci aveva stampato sopra dal computer il simbolo della FIGC, della Lega Calcio e altro, e si offriva, e lui si offriva quindi alle squadre, e io poi aveva proprio preparato al tavolo il bar tutto, anche i bigliettini da visita e altro. Però oggettivamente devo dire che credo che come strategia non abbia pagato molto, perché non ho mai visto nessuno che fa come mai per il terzo tavolo. Strano, eh? Ciao Tancredi, grazie. Ciao, ragazzi, ciao Tancredi Palmieri. Potete immaginare, l'abbiamo descritto a parole, ma potete anche immaginarlo da soli cosa sia in questo momento l'Ata Hotel, il gorgo del vizio del calciomercato. torno agli ascoltatori, eh. Ma prima di Ambrogio e Romano vi voglio far sentire un grande protagonista del mercato, questo, quello precedente, quello futuro. C'è Ferrero che ha parlato di Eder e di Soriano. Allora, vi ricordo che è iniziato incontro con la Sampdoria per Eder, un nuovo tentativo del DS Ausilio per arrivare all'attaccante all'ultima ora di questo momento. Pare che Soriano sia vicino al Napoli per 13 milioni più Zuniga. Ma Ferrero ha parlato in questo modo. Poi si arriva, perché questo è il calcio. Un calciatore che vuole andare, perché poi non è volontà mia. Che vuole fare? Ma arriva uno e mi dà 20 milioni, allora io vado dai miei tifosi che hanno fatto un casino inutile, tutte queste cose. Guardi, Eder è un calciatore della Samp, è stato rinnovato il suo contratto a marzo scorso e io ancora la testa mi aiuta. Eder è un giocatore sampdoriano. E se il ragazzo chiederà e chiede di andare in un grande club, Sirisa vuole molto bene a Soriano, il Milan vuole Soriano, il Napoli vuole Soriano, la Juve, tutti vogliono Soriano. E può arrivare Ribarbo se parte Der. Eh? Può arrivare Ribarbo. Ma può arrivare un sacco di gente, vediamo. Ma io non capisco niente, dovremmo chiedere a Zenga. Chiederemo a Zenga. Intanto la Fiorentina ha preso, sta per prendere Blazikowski dal Borussia Dortmund, sarebbe un gran colpo. Joaquin potrebbe passare dalla Fiorentina al Betis, ma è tutto ancora in divenire, mentre siamo veramente vicino al passaggio di Hernanes dall'Inter alla Juve. 11 milioni. Ambrogio, provincia di Monza, buongiorno. Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per il programma. Io ho due domande sulla Juve. Sì? Uno, cosa pensa dell'operato di Allegri, se non sarebbe meglio per la Juve prendere Klopp? E due, su Marotta, se non sta perdendo un po' colpi con la cessione biennale di Comane, per esempio il colpo di Hernández. Ah, grazie a lei. Allora, io credo che Allegri l'anno scorso abbia avuto la miglior stagione della sua carriera ed è stata la stagione della sua consacrazione definitiva. Se dopo uno scudetto e una finale di Champions League, vogliamo dire che dopo due sconfitte la Juventus deve cambiare allenatore, vabbè, facciamolo, però mi sembra un po' precipitoso. Allegri l'anno scorso è stato semplicemente il miglior allenatore del campionato italiano, uno dei migliori d'Europa, e si è consacrato. Ora vediamo se gli completano la squadra. Certamente ci sono delle domande a proposito delle condizioni fisiche dei giocatori, perché tanti infortuni muscolari meriterebbero una risposta, però da lì a criticare Allegri dopo le prime due sconfitte stagionali è tanta roba, ma ce ne passa. Romano da Roma. Pronto? Buongiorno Romano da Roma. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io chiamo da Roma, sono sposo interista e quindi un po' mi dispiace di questa ultima notizia. Quale? Hernanes alla Juve. Non vorrei che gli torniamo i tempi di Bonizzini, Altobelli e E poi niente, mi dispiace che non ci sia più Giuliani, altrimenti gli avrei ricordato che anche i tempi, visto che ho 60 anni. Mi dà fastidio la sua arroganza da juventino puro qual è. Grazie a lei Romano da Roma, ma arroganza. A me Paolo Zuliani è molto simpatico, poi che sia è un bravo giornalista, poi che sia tifoso dichiarato e che faccia le telecronache per mestiere orientate in quel modo, siamo abituati, e io trovo anche molto divertenti e molto intelligenti, quindi questo è quanto. Non mi sembra il caso di rimpolpare questa polemica, ma mi sembra il caso di aggiornare la seduta a domani, quando il mercato sarà chiuso, chiuderà alle 23 di questa sera finalmente, ed era ora non ne potevamo più. Quando non ci sono posticipi, domani torniamo su tutti questi temi, è la Juventus, è l'Inter, è il Milan, è il Napoli, e vediamo chi prende questo, vediamo chi prende quello, e Luca Marchetti che va in vacanza fino a gennaio. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, a Gianmarco Ferronati in regia, a Giovanni Melchiorre in redazione. Ciao a tutti, arrivederci ragazzi, ciao.